Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi e la seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nella cronaca italiana tra i casi di Nera e giudiziaria, nelle curiosità del costume e dello spettacolo. È uno dei filoni, delle piste che segue da tempo il programma di Radio 24 Italia in controluce, le mafie nel nord. Andrea Ferro da Genova ci parla della drammatica situazione in Liguria. Bordighera, 11.000 abitanti tra Sanremo e la Costa Azzurra, spicchio dorato di Riviera, stazione climatica sin dall'Ottocento, hotel di lusso e serre di fiori, ma lo scorso giugno la cartolina si è annebbiata. La prefettura d'Imperia ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale dopo una retata dei carabinieri e il sospetto, incardinato tra inchieste ed intercettazioni, che i tentacoli dell''ndrangheta abbiano ghermito l'attività dell'amministrazione. Da alcuni giorni le abitazioni di tre consiglieri comunali sono vigilate dai carabinieri. Uno di loro è Donatella Albano, che si era schierata contro l'apertura di una sala giochi innescando una querelle, dalla quale poi è partita l'inchiesta sulle presunte collusioni tra una famiglia calabrese e alcuni assessori comunali. Facendo un sondaggio tra le fra le mamme, fra i bambini, cioè fra le mamme, le scuole e quant'altro, sapevamo di non volerla questa sala giochi, anzi abbiamo fatto la richiesta al comune per una sala ludica dove i bambini potessero, i ragazzi potessero fare del resto, altro, non so, recitare, cantare, fare del teatro e quant'altro. Bene, la sala giochi comunque sia viene portata in consiglio comunale. Nel frattempo, io un giorno prima della convocazione del consiglio comunale ho presentato un'interpellanza in cui illustravo le mie motivazioni perché non volessi questa sala giochi, non la volevo proprio, a prescindere chi l'aprisse. Contro la sala giochi a Bordighera nasce un movimento che valica gli steccati politici e un giorno a casa di Donatella Albano viene recapitata una busta. Una busta con dentro una fetta di limone. Non ho pensato, ma che cavolo di scherzo è? Non è mio tutto quanto, ma che cavolo di scherzo è? Però poi ho chiesto, ma cosa vuol dire? Dice, sai, ridendo, nel linguaggio dell''ndrangheta, della mafia che sia, vuol dire stai zitta. Ma io dico, non ho fatto nomi, non ho detto nulla, ho solamente fatto questa cosa che non la volevo. Come consigliere comunale penso che sia un mio diritto, giusto, no? Ma la battaglia continua e alla fine il comune di Bordighera non concede alcuna autorizzazione per l'apertura della sala giochi, ma per Donatella Albano non è finita. Passa un po' di tempo e mi arriva una seconda busta. Seconda busta con dentro un santino bruciato, io non so il linguaggio dell''ndrangheta, della mafia che sia, con l'effigie di San Michele Arcangelo, che poi ho saputo in seguito fosse il protettore della polizia, ed era un santino molto unto e sporco. Nel frattempo, prima che io andassi ai carabinieri, mi è giunta un'altra telefonata in cui mi diceva, una voce maschile, tanto lo sanno tutti, non è che io nascondo chissà che cosa, e mi hanno detto stai attenta che hai dei figli, e io ho risposto anche voi. Liguria, terra di passaggio ed intrecci sommersi, dove non si spara, ma si ricicla. A luglio, un filone della maxi inchiesta che tra Reggio Calabria e Milano ha trascinato in carcere 300 persone, si è allungato fino a Genova. Sono finiti in manette un verduraio e un piccolo imprenditore, ritenuti referenti locali di alcune famiglie. Da poche settimane, alla guida di Confindustria Liguria c'è Sandro Cepollina. Nel suo discorso di insediamento ha rivolto un appello a vigilare affinché la piovra, sfruttando i varchi aperti dalla crisi, non si insinui nel tessuto produttivo di una regione che si credeva immune da questi rischi. Non si può prescindere da un mercato sano senza legalità. Gli appalti pubblici, però, così come sono strutturati attualmente, con la logica del massimo ribasso, in qualche maniera mettono le aziende corrette e serie in difficoltà a poter partecipare e quindi vincere a certe gare. Se non altro, invece, aziende meno trasparenti, diciamo così, adesso non voglio nemmeno pensare alla provenienza, però meno trasparenti, hanno più facilità a partecipare a certe gare di appalto, offrendo poi dei prezzi che sono fuori mercato, quindi sia a scapito della qualità del progetto, del lavoro eseguito, a scapito della sicurezza. Non solo appalti, talvolta la criminalità organizzata si fa avanti tendendo una mano che poi vorrà stritolare aziende sane. Il problema anche della difficoltà del credito in questo periodo di crisi, insomma, molte piccole aziende in maniera particolare sono un pochettino in difficoltà nell'accedere ai crediti o ci sono ristrettezze sul credito, quindi anche lì ecco la facilità per alcune finanziarie di poter entrare prima come finanziatori e poi addirittura come acquirenti di aziende che sono poi sane, che sono aziende del territorio, aziende condotte da persone integerme. Italia in controluce. La seconda storia di oggi parla di democrazia e di partecipazione ai tempi di Wiki. Maria Luisa Pezzali. Quello che sentite in sottofondo è Robert Gibbs, responsabile dell'ufficio stampa della Casa Bianca. Il 28 ottobre scorso è apparso con questo video su YouTube per rispondere alle domande inviate dai cittadini via Twitter. È un esempio concreto di wikicrazia, dal titolo del primo manuale sulle politiche pubbliche in rete scritto da Alberto Cottica. I Government 2.0, governo wiki, politiche pubbliche user generated. Le definizioni sono molte, ma dicono tutte la stessa cosa. Anche nella pubblica amministrazione è possibile intervenire usando le tecniche e l'etica del web 2.0, mettendo in primo piano pratiche open source all'insegna della condivisione, della collaborazione e della trasparenza. Cittadini e istituzioni possono collaborare per eseguire azioni di governo, ci dice l'autore economista prestato alla musica, ma anche musicista prestato all'economia. Cottica, infatti, è uno dei fondatori dei Modena City Ramblers. 10 anni fa ha lasciato la band per dedicarsi a temi come economia creativa e internet sociale. Credo che in una società complessa l'unico soggetto che veramente ha le capacità cognitive e operative per governare la società è la società stessa. Una cosa forse banale, ma che funziona, è il controllo del territorio palmo a palmo. È una cosa che è nata prima in Inghilterra con un progetto che si chiama Fix My Street e poi è stato ripreso anche da alcuni altri soggetti anche in Italia, per esempio il comune di Spinea. Funziona così: tu esci di casa e trovi che c'è un lampione che non funziona, vai sul sito e scrivi: no, però il lampione davanti al numero 14 via Garibaldi non funziona. Il sistema manda una mail automatica al responsabile di quel servizio lì nel tuo comune, che se la prende in carico e usa questa cosa per intervenire. Se tu vai a vedere sul sito di Fix My Street, scegli un comune qualunque, vedi proprio che il terreno è controllato palmo a palmo e che le persone hanno anche voglia di proporre delle soluzioni, dal talvolta, per esempio incroci pericolosi che potrebbero essere organizzati diversamente. È una cosa che dice molto sulla voglia di contribuire in modo costruttivo dei cittadini. Nato con Wikipedia, dopo il sapere il modello Wiki sta rivoluzionando anche l'economia, vedi il bestseller Wikinomics, la collaborazione di massa che sta cambiando il mondo. Prossimo bersaglio, appunto, la politica. Credo molto che ci sia nel mondo tantissima intelligenza, tantissime competenze che stanno nei cittadini. In questo momento non sono libere di esprimersi perché non ci sono i canali per farlo. Per cui, così come una grande massa di persone non pagate, che lo fa nel tempo libero, può scrivere la più grande enciclopedia del mondo, la stessa grande massa di persone può riprogettarsi il quartiere. C'è in Europa in questo momento un fortissimo interesse per questi fenomeni. Io lavoro con il Consiglio d'Europa, tra l'altro, e vedo che a livello europeo c'è una forte attenzione. Perché? Perché c'è una crisi finanziaria e quindi anche fiscale. Io sono convinto che la dinamica economica e sociale stia spingendo i governi di tutto il mondo verso la collaborazione con i propri cittadini. Nel momento in cui tu diventi un agente della governance, la governance è un po' anche tua, cioè ci metti anche un po' del tuo nel farlo. Nel mio libro cerco di argomentare che in genere le politiche, per come sono scritte nei documenti di programma, sono molto vaghe. Per esempio si dice: devi fare gli spazi laboratorio creativi. Da questa cosa al centro culturale concreto, quanto è grande, dove sta, chi ci sta dentro, ci sono tanti passaggi che il documento programmatico lascia liberi. Quindi tu, cittadino, lavorando su questa cosa, puoi dare a quel luogo e a quella politica il tuo segno, quindi ti dà molto più potere. Wikicrazia è il crowdsourcing, la pratica di consultare la comunità virtuale per la ricerca di contenuti e soluzioni applicato alle amministrazioni pubbliche. Dimostra che anche la burocrazia, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini attraverso la rete, può parlare con voce umana. Anche in Italia? Me lo obiettano spesso. Io rispondo che rispetto molto le ragioni di chi si approccia al problema delle politiche pubbliche in Italia con un atteggiamento cinico o con la lamentazione, perché ne ha qualche ragione, cioè è vero che ci sono problemi di clientela, è vero che ci sono problemi di inefficienza, di corruzione, quello che vuoi. Però pur nel rispetto di queste ragioni, io scelgo di non farle mie e di concentrarmi invece sulle tantissime persone all'interno delle pubbliche amministrazioni e anche della classe politica, devo dire, che hanno una vera passione per le cose che fanno e cercano di farle al meglio, cercano delle strade. E per testare il modello Wiki, Alberto Cottica l'ha applicato al suo stesso libro. A giugno del 2010 io mi sono trovato con in mano una bozza che il mio editore avrebbe anche pubblicato così, ma invece di pubblicarla l'abbiamo messa sul mio blog e l'abbiamo lasciata lì un mese invitando dei commenti. E abbiamo avuto quasi 200 commenti da 50 persone, con dei commenti anche molto qualificati. Per esempio il direttore del progetto Open Government della Casa Bianca ha commentato, ma anche cittadini comuni che mi correggevano su degli aspetti specifici. E con l'aiuto di tutte queste persone, a cui va veramente la mia gratitudine, è nata la versione definitiva del libro, e questa cosa ha funzionato molto bene e mi dà la prova che l'intelligenza collettiva esiste ed è sicuramente superiore alla mia, perché il libro è venuto meglio di come l'avevo scritto io. La seconda edizione di Italia in Controluce, il nostro sito dove potete trovare anche il mio blog radio24.it, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it, in Controluce il gruppo di Twitter. La mia voce torna domani 6:30, Radio 24.